Emanuela, che è socia fondatrice del Reti Relazioni Etiche, per un evento che prende il nome di Poliamore, narrazione, diritti, riconoscimento, che si svolgerà sabato a partire dalle ore 15:30 fino alle ore 20 alla Sala del Carroccio al Campidoglio. Intanto benvenuta a Radio Onda Rossa, Emanuela. Grazie, bentrovati. Allora, intanto diciamo di cosa si tratta, cos'è questo appuntamento? Allora, è un talk show sostanzialmente, cioè un momento di confronto, sì, tra diverse figure professionali sul tema delle relazioni e di come esse vengano narrate, sia dai canali di narrazione più comuni, quindi libri, fumetti, cinema e televisione, e sia da come vengono narrate dalla legislazione. Opposti è in che modo la narrazione comune sulle relazioni influisce le leggi, e al contrario la legislazione deve rispecchiare quello che viene narrato, o in qualche modo da una forma e quindi da un riconoscimento da cui poi partono le narrazioni. Ok. Senti, ci parli anche un po' dei soggetti coinvolti? Assolutamente. Allora, tra gli ospiti che abbiamo chiamato abbiamo cercato di prendere punti di vista il più variegati possibili. Quindi abbiamo chiamato un'avvocata di Rete Lanford, e poi abbiamo chiamato una saggista e filosofa, abbiamo chiamato il presidente dell'associazione di Reti, che è anche uno dei fondatori del sito poliamore.org, e poi abbiamo chiamato un fumettista per darci spunti appunto sull'aspetto più strettamente narrativo, e per ultimo abbiamo chiamato un rappresentante dei Passafariani. Ci piacerebbe che questo momento non fosse semplicemente un confronto politico, ma che avesse un po' un tocco di vivacità, un modo da creare nuove idee, nuovi orizzonti, eccetera. Non siamo lì per rivendicare qualcosa, non crediamo sia ancora il momento di rivendicare, ma pensiamo che comincia a diventare interessante confrontarsi sull'argomento. Noi facciamo incontri sul poliamore ormai da diversi anni, e finora ci siamo posti un po' come confronto, nel senso offriamo la possibilità a chi si avvicina al poliamore, a chi cerca un modo diverso di relazionarsi, di confrontarsi con noi. Però abbiamo visto quest'anno un interesse crescente, se ne parla molto su vari media, su giornali, se ne parla in internet, e quindi crediamo che sia anche il momento in qualche modo di porci qualche domanda e avere un orizzonte allungato su come sarà possibile poi non solo scegliere e autodeterminare le proprie relazioni, ma anche fare in modo che siano riconosciute al mondo esterno. Sì. Senti, riguardo a Reti, Relazioni Etiche e Poliamore.org, ce ne parli un po'? Ha un anno, ha fatto un anno domenica, quindi è proprio piccolina, ma in realtà il gruppo dei soci fondatori lavora e organizza incontri qui da diverso tempo, e abbiamo sentito il bisogno di creare un'associazione proprio per una serie di questioni istituzionali. Noi cerchiamo di diffondere una cultura sull'autodeterminazione nelle relazioni, e di conseguenza cerchiamo di diffondere una cultura anche sul consenso nelle relazioni, sulle scelte, sul dialogo, sulla comunicazione. Per fare questo creiamo una serie di incontri, abbiamo creato un incontro nazionale, l'Open Con, a cui hanno partecipato persone da diverse parti d'Italia, abbiamo una polibiblioteca, creiamo dei momenti di cineforum andando a cercare film, e insomma cerchiamo di garantire il più grande numero di servizi possibile. Mm-hmm. Per fare questo, chiaramente avere un contenitore come un'associazione diventa funzionale, perché ti permette di creare una serie di contatti, ti permette di creare una rete di relazioni e di attività che in qualche modo ruotano intorno a questi temi, e ti permette anche di fare tutta la parte burocratica, amministrativa, eccetera. L'associazione è nata da quelle persone che appunto organizzavano questi incontri e che si ritrovavano prima sul sito poliamore.org in qualche modo per cercare di promuovere queste attività. Ora, il sito in questo momento è in fase di rinnovo, sì. Cerchiamo di renderlo sempre più vivo, perché questo è un po' l'aspetto tematico centrale. Andiamo più a una narrazione sul poliamore e sulle scelte autodeterminate, quindi si continuano a trovare sempre più canzoni, libri, articoli, saggi, comincia a nascere proprio una riflessione sull'argomento, e quindi necessariamente pronto di poliamore.org. Ok. Bene, a questo punto ricordiamo l'appuntamento di sabato e poi in caso ci si risente per le novità future. Assolutamente, grazie. Allora, l'appuntamento è sabato alle 15:30 alla Sala Carroccio al Campidoglio. E è possibile prenotarsi sul sito Eventbrite per prenotare i posti a sedere, perché la sala non è grandissima e ci aspettiamo una stanza piuttosto vasta, quindi sarebbe meglio prenotare subito i posti perché ne sono rimasti davvero pochi. Ok, allora ti ringrazio Emanuela, a risentirci presto. Ciao ciao. Benissimo, ciao.